Cari amiche, cari amici, bentrovati, Mari D di Radio Alma, Brussellando. Ne avevamo parlato, anzi, ne abbiamo parlato così tante volte che ormai non ci credo. Ebbene sì, avevo espresso questo desiderio tanto tempo fa e sono contenta perché finalmente ho la possibilità di intervistare uno dei fondatori e poi ci dirà se è da solo oppure con qualcun altro di questa veramente bellissima associazione culturale che si chiama BitLive, che ha dato la possibilità a tutto il popolo degli espatriati italiani e non solo, coloro i quali amano la nostra cultura, di poter ammirare dal vivo tante belle personalità. E per questo 2016 sono ancora tante altre le figure artistiche che animeranno il palcoscenico brussellese. Quindi sono in collegamento telefonico con Stefano Pesca. Stefano, benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Eccomi, sono qua, benvenuti a voi e grazie mille per, insomma, averci contattato e darci questo spazio, prima di tutto. E noi siamo contenti di averti nostro ospite perché, come ti dicevo, finalmente abbiamo la possibilità di far conoscere agli italiani, a quelli che già vi conoscono e a tutti i nuovi arrivati, che cos'è BitLive. Quindi come nasce questa associazione? Qual è il bisogno che vi ha spinto a creare un'associazione di questo tipo a Bruxelles? Ma guarda, allora, insomma, l'idea devo risalire al lontano 2000, 2008. In questo caso, io mi occupavo già di musica dal vivo, di spettacoli a Torino, la mia città, tra l'altro, dove mi trovo in questo momento, e andai a vivere a Londra per un periodo, dove un'altra agenzia che si chiama TAJ Events, con la quale noi collaboriamo tuttora, stava iniziando, insomma, questo percorso di esportazione della musica italiana a Londra. E in questo caso da Londra mi sono spostato a Bruxelles proprio in quei giorni, poco dopo che ero arrivato a Londra, mi sono spostato a Bruxelles, dove ho conosciuto Jacopo Panizza della Piola Libri. Anche loro, insieme ad alcuni partner, stavano iniziando a organizzare dei concerti a Bruxelles, mi pare, insomma, Vinicio Capossela, Silvestre Sulsonica, e insomma rimasi affascinato dalla Piola, dalla città, e niente, decisi allora di spostarmi a quel punto da Londra a Bruxelles per provare a impostare questo percorso lavorativo, professionale, di promozione della musica italiana all'estero, insomma. Toglimi una curiosità, la reazione perché noi abbiamo avuto lo stesso percorso, anche se Brussellando è un programma radiofonico, quindi mi metto anche nei panni di chi come te ha provato a contattare sicuramente personalità di alto carico, a livello musicale soprattutto. Io l'ho fatto con i libri, voi l'avete fatto, con la musica. Quali sono state le prime reazioni rispetto ad un'associazione comunque volenterosa ma giovane? Ma allora devo dirti che io, prima appunto di trasferirmi in Belgio, erano già parecchi anni che lavoravo nel settore, quindi come succede in Belgio anche per altri tipi di realtà, come il Botanique, come l'Ancien Belgique, insomma, che sì, hanno delle forme associative, perché comunque ricordiamoci che stiamo promuovendo cultura, d'altra parte hanno anche un'impostazione dietro decisamente professionale, no? Quindi molti dei contatti che abbiamo messo in gioco erano contatti con cui già si avevano delle relazioni in Italia, avevo delle relazioni in Italia per via del mio lavoro qua, e quindi devo dire che è un percorso che è cresciuto, cioè Beat è cresciuto insieme agli artisti stessi, che uno dopo l'altro, essendo poi mondo della musica piccolo, insomma, ci si conosce fra artisti, fra agenti, fra promoter, fra manager, e quindi uno dopo l'altro, giustamente un artista fa un tour europeo e dice a un altro: ah, guarda, sono stato a fare un concerto a Londra, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, e normalmente l'artista allora va dal suo manager e dice: anche io voglio andare a fare il tour europeo, no? E questo lavoro in tutti questi anni, come appunto si può notare, è decisamente aumentato, quindi tutti gli artisti hanno iniziato a chiedere di venire a fare delle proprie, e questo partendo dalla musica per poi arrivare anche a delle altre arti della scena, come per esempio il teatro comico, insomma, la satira, e questo tipo di spettacoli che stiamo realizzando. Abbiamo iniziato, diciamo, con Brignano l'altro anno, che è stato un successone, adesso Fiorello, Aldo Giovanni Giacomo si sono incodati proprio perché hanno sentito che il feedback era stato decisamente positivo. Questo mi aiuta quindi con un'altra domanda. Sì, sai, io sono arrivata a Bruxelles nel 2003. Non ho altre esperienze effettivamente lunga di vita vissuta in altre capitali europee. Però ricordo, quando ho cominciato l'attività radiofonica, che tutti mi guardavano un po' perplessa, ma Bruxelles è la città della burocrazia, Bruxelles è la città degli affari amministrativi, Bruxelles è una città vecchia. Invece poi negli anni così non è stato. Quanto credi abbia comunque questo contribuito al successo anche degli eventi? Perché tu all'inizio dicevi soprattutto Parigi, Amsterdam, Londra, che sono città effettivamente radicate anche nell'immaginario collettivo, come città divertenti, ludiche, di teatro, insomma più spettacolari rispetto invece, permettimi, la similitudine con la grigia e non solo amministrativa, ma anche, diciamo, città di Bruxelles. Ma guarda, io credo che invece in questi anni Bruxelles mi abbia ampiamente dimostrato di non essere una città esclusivamente amministrativa, grigia, purtroppo, purtroppo non possiamo farci niente. Io non credo che Bruxelles sia una città amministrativa, io credo che Bruxelles sia il luogo dove giustamente hanno sede molte istituzioni europee, ma sotto la giacca e la cravatta si celano poi delle persone, e quelle persone siano persone con un altissimo livello culturale, e quindi dimostrano poi effettivamente che, tolto l'abito, non sono solo lì a compilare fogli, insomma, ma sono persone a cui piace vivere, piace produrre cultura, piace seguire cultura e piace anche sentirsi in qualche modo più vicini al proprio paese, dovendo per motivi lavorativi vivere lontano. Assolutamente, concordo con te, quindi insomma è una città che abbiamo anche noi risvegliato, credo, perché proprio tutte queste attività culturali poi ci permettono di stare insieme, di andare al di là del grigio. No, dico, ho usato il termine produrre cultura perché appunto c'è un sacco di gente che produce cultura pur lavorando nelle istituzioni come hobby, come secondo lavoro, per passione, per anche molte volte portare, far rimanere vive le proprie radici. Assolutamente, sono d'accordo con te. Molto viva la città, insomma, Beat è una realtà, ma ce ne sono tante altre che potrei citare, la stessa radio, assolutamente, piuttosto che altri artisti italiani che vivono in Belgio, la Piola o altre strutture che si impegnano a fare delle attività socialmente e culturalmente utili, insomma. Assolutamente, guarda, sono veramente d'accordo con te. Allora, sono curiosa perché non mi aspettavo che l'associazione risalisse già al 2008, quindi in tutto questo tempo c'è magari un episodio, un aneddoto simpatico oppure triste, decidi tu, che ti viene così adesso all'esprit, in questo momento? Ma guarda, allora ti faccio una piccola correzione: nel 2008 diciamo che è iniziato il processo di costruzione del progetto che sta dietro a BIT. Ufficialmente BIT è nata nel 2012 amministrativamente, quindi legalmente, ufficialmente. È chiaro che già prima avesse iniziato il suo percorso col nome sempre di BIT, e questo percorso appunto è iniziato nel 2009, fine 2009, quando poi da Londra io sono arrivato a Bruxelles. Insomma, all'inizio c'è stata questa collaborazione con Arza, Silvana Altamore, che forse certo, hai conosciuto. Assolutamente, anzi magari la salutiamo. Esatto, che salutiamo, e a cui dobbiamo anche il nome, perché in realtà il nome, così com'è, era stata ai tempi un'idea sua, poi lei, insomma, ha chiuso Arza, ha preso altre strade, però bisogna ricordare che all'inizio era Arza più Stefano Pesca più Jacopo Panizza, questo era insomma il nucleo iniziale di Bigit. Poi chiaramente le cose vanno avanti, cambiano, si modificano a seconda delle proprie vite e delle situazioni. Un aneddoto, guarda, c'è un aneddoto divertentissimo che è successo nel 2013, insomma, con Paolo Rossi. Mm-hmm. Allora, in quella settimana Bruxelles aveva tutti gli hotel occupati per un evento legato al pesce, insomma, adesso non mi ricordo quale sia il nome, comunque tutti gli anni c'è questo evento molto grosso, mondiale, dove si riuniscono l'industria del pesce mondiale si riunisce a Bruxelles, per cui portare Paolo Rossi e il suo staff a casa, quindi a casa mia in questo caso, e quindi chiaramente pulimmo la casa, rendemmo la casa un posto molto simile a un bed and breakfast, insomma, con tutte quelle che sono le accortezze del caso. Quando Paolo Rossi entrò in casa, disse: cavolo ragazzi, siete veramente ordinati, siete veramente puliti, veramente capita raramente di entrare in una casa così pulita. Noi raccontammo che effettivamente sì, siamo persone pulite e ordinate, però diciamo che avevamo fatto anche un lavoro apposta per poterli ospitare in un posto aggreabile, come si dice. E lui ci raccontò che l'unica volta che era stato in un'altra casa simile, con questa pulizia, con quest'ordine, era all'inizio della sua carriera a Bologna, dove entrò in questa casa di questi ragazzi giovani, proprio come eravamo noi, molto gentili, dove addirittura c'erano dei cartelli che dicevano che non si poteva far rumore dopo una certa ora per non disturbare i vicini e tutto, se non che la settimana dopo aprì il giornale mentre era tornato a casa e, leggendo, vide che era stato trovato un covo delle PR a Bologna ed era proprio questa casa dove era stato ospitato, insomma. Quindi quest'ordine, diciamo che era dovuto ad altri interessi, ecco. Beh, almeno Paolo Rossi partirà, o meglio, avrà sempre l'idea di una Bruxelles pulita, ordinata, o quantomeno almeno di casa tua, quindi credo che sia veramente un aneddoto simpatico. Mi piacerebbe chiederti altro e raccontarci magari anche qualcosa in più, però vorrei venire alla ricca programmazione culturale dei prossimi mesi. Veniamoci. Partiamo con l'ospite, quello più immediato, di cui tu parlavi già prima, che sarà qui a Bruxelles, credo per la prima volta, però correggimi se sbaglio, non ricordo, almeno dal periodo in cui io sono qui a Bruxelles, che Fiorello sia stato mai a Bruxelles. Per la prima volta, ecco, quindi confermi. Allora, l'ora del Rosario, innanzitutto, è stato semplice contattarlo o comunque convincerlo a venire qui, o invece sulla base di quello che ci siamo detti prima, lui ha accettato di buon grado? Raccontaci un po' come è avvenuto questo incontro con Fiorello. Ah, guarda, è stata una cosa da lui, insomma, che è una richiesta che il suo management ha avuto, lui, insomma, ha richiesto al suo staff di potersi esibire all'estero, e quindi, insomma, noi siamo caduti a fagiolo, come si dice, e abbiamo accolto noi con piacere questa richiesta. E se invece devo dire la verità, sarà una produzione molto complessa, insomma, il teatro è sold out, sta andando in sold out, quindi siamo molto contenti perché lo spettacolo è molto bello, molto divertente, ma anche molto complesso, quindi c'è un gruppo che suona dal vivo, lui canterà, sarà quasi un musical, ci sono un sacco di persone al seguito, insomma, una produzione molto molto complessa. Il loro viaggio non sono 27 persone, solo loro, più tutto il nostro staff di beat, insomma, anche se sembrerà un uomo solo al comando sul palco, in realtà dietro c'è un gran lavoro. Beh, posso immaginarlo, ho letto il vostro comunicato stampa, quindi mi sembra di capire che lo spettacolo sia molto ricco, però lascio a te il margine, quindi, di raccontarci già qualcosa in anteprima, oppure una frase con la quale ti senti di riassumere questo spettacolo proposto da Fiorello. Magari perché l'ora del Rosario? Questo bisognerebbe chiederlo a lui più che a me, però immagino che facilmente si possa unire il Rosario al suo nome, insomma, e anche al momento, appunto, del Rosario, insomma, quindi sarà uno spettacolo che parlerà dell'Italia, dell'Italia contemporanea e dell'Italia passata, appunto, con monologhi, con canzoni, con duetti vari, mentre appunto l'Italia contemporanea sarà più della parola, insomma, di Fiorello che ci porterà dentro. Beh, in realtà c'è molta attesa, non ti nascondo che ho ricevuto tante email di richiesta, di curiosità, di informazione sullo spettacolo di Fiorello, proprio perché probabilmente nella sua veste teatrale forse è meno conosciuto, soprattutto all'estero. Beh, certo, poi ricordiamoci che rimane un personaggio televisivo. Esatto. E quindi anche fuori dall'Italia, per chi segue perlomeno pubblico italiano, perché segue la televisione italiana, rimane comunque un personaggio che da tanti anni, no, sugli schermi, Esatto. da quando si faceva il famoso karaoke. Io ero ancora piccolo, lui era già lì. Allora, Fiorello sarà a Bruxelles il prossimo 15 febbraio al Teatro Saint-Michel. Le porte si apriranno alle 19:30, mentre lo spettacolo, correggimi se sbaglio, inizierà alle 20:30. Esatto, insomma, come al solito, minuto più, minuto meno, perché noi non Certo. siamo fiamminghi, siamo italiani, ci prendiamo il quarto d'ora accademico. Ebbene sì, e ricordiamo che tutti coloro i quali vorranno saperne di più potranno ancora acquistare dei biglietti, se ho capito bene. Sì, gli ultimi immagino, cioè se si vogliono acquistare bisogna farlo molto molto in fretta, perché secondo me entro 24 ore saremo in sold out. Beh, noi ve lo auguriamo, però intanto invitiamo tutti coloro i quali fossero incuriositi dall'ora del rosario di Fiorello di apprestarsi a comprare il biglietto. Parliamo invece di un altro evento, di un evento che avrà luogo un po' più in là. Speriamo in primavera, cioè speriamo, sì, no, meglio, avverrà in primavera. Speriamo che sia veramente America, primavera, davvero. cioè il 23 marzo. E questa volta non parliamo proprio di teatro, parliamo di un personaggio che invece è già conosciuto anche a Bruxelles, di Marco Travaglio, il quale sarà sempre al Teatro Saint-Michel. Marco Travaglio in slurp. No? Teatro del San Carante. Allora, scusa, avevo un'informazione sbagliata, mi devi scusare. Quindi al Teatro San Carante, ottimo teatro, è uno dei miei teatri preferiti qui a Bruxelles. Quindi al Teatro San Carante, tra l'altro, quindi una zona abbastanza centrale, soprattutto per quelli che gravitano in zona europea. Allora, Marco Travaglio in slurp. Marco, immagino, porterà tutta la sua ironia e il suo cinismo. Che per chi era stato già al Bosare, insomma, la volta scorsa, fa uno spettacolo decisamente, decisamente divertente. Insomma, che devo dirti che è un travaglio diverso da quello che si vede anche solo in televisione, no? Un travaglio anche più autironico, decisamente più simpatico, no? Meno maestrino, perché una Esatto, critica sì. che gli si dà sovente. Devo dire che è un travaglio, mi ricordo anche come persona, molto diverso da quello che uno si può aspettare. Qualcosa E sul suo spero che spettacolo? confermi questo lato caratteriale anche in questo spettacolo. Noi ce lo auguriamo, ma qualcosa, magari una chicca, un'anteprima, sullo spettacolo? Guarda, io devo dirti la verità, Va non bene. potendo vedere tutti gli spettacoli prima di poterli proporre anche io, questa anche la figura del promoter, come nel nostro caso, molte volte scopre lo spettacolo la sera stessa. In questo caso è proprio così, quindi. Però conoscendo Marco Travaglio, magari ci sono meno o comunque imprevedibilità rispetto allo stesso Fiorello, dove lì mi attendo effettivamente tante sorprese. Ma diciamo che te ne aspetti più con Fiorello che con Travaglio. Esatto, sì, assolutamente Decisamente. sì. Sono due spettacoli con un taglio decisamente diverso, insomma. Quello di Fiorello è forse più ludico, quello di Marco Travaglio è più tagliente. Certo, assolutamente sì. Invece ritorniamo al teatro, perché lo dicevamo in apertura, sono tanti gli spettacoli. Colgo l'occasione di parlarne già adesso, perché altrimenti chissà quando avrò modo di riparlarti. Siamo invece in primavera inoltrato, almeno ce lo speriamo, il 27 aprile, e saranno, credo per la prima volta, a festeggiare il loro 25esimo anniversario Aldo, Giovanni e Giacomo. Questa volta, correggimi, mi raccomando, al Cercle Royal. No, questo è giustissimo. Ah, meno male. Allora, questa volta al Cercle Royal. Apertura, come sempre, nelle porte alle ore 19, se ho scritto bene. Quindi, allora, sono curiosa perché sono. Guarda, io ogni volta che li vedo, già solo a vederli inizio a ridere. Quindi, raccontaci qualcosa su di loro. Ma guarda, questo è uno spettacolo che sono veramente contento di fare, perché insomma, con Aldo, Giovanni, Giacomo e i loro sketch ci siamo un po' cresciuti tutti, sono tre persone che veramente, veramente si meritano, perché sono tre persone squisite, e l'hanno dimostrato anche, insomma, non so se avete visto sulla pagina di Bit il video dedicato a Bruxelles, e alla loro data brussellese che hanno fatto, insomma, E poi il fatto di ritornare un po' tutti i giovani, insomma, quelli della nostra generazione, che sono cresciuti magari con Mai Dire Gol, con i loro sketch storici, avranno l'occasione di rivederli dal vivo e farsi delle grandissime risate. Anche lì avremo una band dal vivo, i Goodfellas, band di Milano, di swing fantastica che suonerà, e poi appunto la loro gireranno anche delle immagini del nuovo film, quindi potremmo finire tutti nel prossimo film di Aldo Giovanni e Giacomo, poi con la regia di Arturo Brachetti, insomma. E quindi mi sembra che le premesse siano oltremodo interessanti, però... Assolutamente. Oh, allora, non abbiamo ancora finito, pensavi di poterti liberare, ma no, devo chiederti ancora 2 minuti della tua pazienza e della tua attenzione. Allora, c'è un altro spettacolo, l'ho lasciato alla fine semplicemente perché quello immediatamente dopo Fiorello, che è invece con Marlene Kunz, che viene proprio a Bruxelles, era già stato qualche mese fa, se non sbaglio, proprio ospite di Jacopo alla Piola, che esce con l'ultimo libro. Scusami, i libri ce l'ho proprio in testa, con l'ultimo album, Lunga Attesa. Una parolina, questa volta al VK, apertura delle porte alle 7.30. È importante perché sarà dopo, insomma, dopo che Molenbeek, per motivi che non è il caso di se si ricordi io, perché sono ben chiari a tutti, me è stato sulla bocca del mondo, sarà il primo gruppo italiano a tornare a suonare a Molenbeek. Questa è prima di tutto una prova, una forte prova, insomma, di coerenza, insomma, rispetto anche alla carriera che è stata di Marlene Kunz. Ci sono stati artisti come Carmen Consoli che sempre nello stesso luogo, purtroppo hanno dovuto annullare il concerto per motivi emotivi. Questo forse anche perché eravamo molto molto vicini ai fatti di Parigi. In questo caso i Marlene invece si sentono forti e decidono di tornare a suonare al VK, e per noi, e anche per noi, insomma, riorganizzare e tornare a organizzare qualcosa a Molenbeek è motivo di orgoglio, insomma. Beh, sai, ci sono cose che effettivamente la cultura deve sempre continuare a fare, cioè non aver paura. E sono d'accordo con te, questo è un ottimo segnale non solo di speranza ma soprattutto di coraggio, perché come saprai tanti eventi sono stati cancellati proprio sull'onda di quello che è accaduto a Parigi. Magari cogliamo anche l'occasione per ricordare quegli artisti, quelle vite, quelle persone che purtroppo ci hanno lasciato proprio quella sera di novembre. Quindi veramente speriamo che questo concerto possa essere veramente foriero invece di tanta speranza e soprattutto di tanta buona musica, così come siamo abituati da anni da Marlene Kunz. E ricordiamo che in apertura saranno Yoko Syndrome, sì, e Ambulance, insomma, due bei, esatto, progetti Bruxelles, di base a Bruxelles, insomma, ma condotti da italiani come noi, e che si meritano decisamente il palco e quindi questa apertura. Quindi ricordiamo, per tutti coloro i quali si fossero sintonizzati in questo momento, Fiorello il 15 febbraio al Teatro San Michel nell'ora del Rosario alle 19.30, con poi lo spettacolo di Fiorello qualche minuto dopo, più o meno. Poi abbiamo detto Marco Travaglio invece al Teatro San Quarante il 23 marzo alle ore 20, Aldo Giovanni e Giacomo il 27 aprile al Cirque Royal e Marlene Kunz invece il 27 febbraio. Tutti coloro i quali volessero avere maggiori informazioni possono consultare il sito. Magari vuoi darci tu le coordinate del sito, Stefano? Così ti levo da questo imbarazzo, allora. Sì, della pronuncia. www.datelive.com, così come si scrive, mentre come si pronuncia è www.datelive.com. E allora, prima di salutarci, c'è qualcosa che non ti ho chiesto, oppure c'è un evento, c'è una chicca che puoi anticipare oggi, il 9 febbraio. Allora, presto lo annunceremo, però diciamo che a maggio c'è ancora un concerto, insomma sarà annunciato dopo Sanremo, ma di un artista che si chiama Max. Beh, mi sembra promettente. Il cognome lo lasciamo in suspense. Beh, credo che chi segua la musica italiana abbia già magari qualche pista, poi se sia quella giusta lo scopriremo tra qualche tempo. Stefano, infine, c'è un saluto, oppure c'è qualcosa che vorresti aggiungere che non ti ho chiesto? Io vorrei ringraziarvi assolutamente per il tempo e lo spazio dedicato. Vorrei ringraziare anche tutto lo staff di BIT, insomma, Claudia, Alessandro, Jacopo, Marzia, Paolo e tutti i ragazzi che ci aiutano in tutti gli spettacoli, perché ricordiamoci che non è promuovere cultura in maniera indipendente come facciamo noi. Non è semplice, molte volte sarebbe anche impossibile, non ci fossero, insomma, persone che ci aiutano, che si mettono a disposizione, no? Grazie a Assolutamente, tutti questi spettacoli che, assolutamente, quindi un penso grande che grazie va a loro. soprattutto a loro, perché insomma il lavoro poi al quotidiano che pure va curato e va curato nei dettagli, e questo si può vedere da tutte le cose che avete fatto. Stefano, io ti ringrazio a nome di Radio Alma, a nome di Brussellando, Grazie a voi. e magari chissà se Viorello ci volesse rilasciare solo un saluto, magari solo per dire ciao a tutti gli amici di Brussellando, noi siamo qui. Verrai allo spettacolo? Certo che ci sarò. Ecco, bene, bene, bene. Allora ci vediamo lunedì. Allora, lunedì e bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao. Ciao.